Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. Una buona giornata, un buon inizio di settimana anche da parte mia, gentili ascoltatori. Il buongiorno vi viene anche da Mire Lucchetti, Massimo Brugnone in redazione e quest'oggi Paolo Corleoni alla parte tecnica. Vi ricordo che potete commentare e porre domande a me e ai miei ospiti via mail nessunluogo@radio24.it, via sms al 349-238-6666. Poi ci trovate su Facebook, Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, e infine su Twitter, Nessun Luogo 24. Ma nella ricca puntata di quest'oggi iniziamo con la Somalia e andiamo a Mogadiscio. Mogadiscio is visibly in election mood as the presidential candidates are running their campaigns. Although the Somali president is going to be elected by the members of parliament and not the public. Quest'oggi, 20 agosto, è una giornata storica per la Somalia. Si conclude infatti oggi a mezzanotte il periodo di transizione durato ben 7 anni. Il governo di transitorio somalo, appoggiato da buona parte della comunità internazionale, è tenuto in vita dal contingente AMISOM dell'Unione Africana, ormai 17.000 caschi verdi. Ha dovuto in questi anni fronteggiare la minaccia di Al-Shabaab, che solo in parte è risolta. E proprio quest'oggi questo governo cede formalmente i poteri in vista di un voto presidenziale che doveva venire quest'oggi, ma è stato rimandato, probabilmente a metà settembre. Cosa c'è in gioco nell'ex colonia italiana? C'è in gioco la stabilità di un paese che non vede la pace da 22 anni. E allora ascoltiamo il punto di Matteo Guglielmo, ricercatore esperto di Somalia, sulla valenza di questa giornata. Oggi, 20 agosto, ha certamente un'importanza più simbolica che sostanziale, nel senso che oggi finisce il periodo di transizione, quindi le istituzioni federali di transizione, che sono il Parlamento, il Presidente, il Governo, cessano formalmente il loro mandato transitorio. Nel frattempo si dovrebbe essere conclusa quella che viene definita roadmap, cioè una serie di tappe per la fine della transizione, che è stata gestita da alcuni attori, tra cui non solo le istituzioni federali di transizione, ma anche il Puntland, il Galmudug, che sono autorità comunque locali, amministrative locali, con l'avallo appunto delle Nazioni Unite, in particolare dell'UNPOS, che è l'ufficio politico appunto delle Nazioni Unite per la Somalia. Il problema è che ad oggi non sono stati nominati tutti i parlamentari, e dunque probabilmente la nomina del nuovo presidente, che dovrà poi a sua volta nominare un nuovo governo, un nuovo primo ministro e dunque un governo, andrà sicuramente avanti, quindi sarà rimandata sicuramente nella prima metà di settembre o comunque nelle prossime settimane. Quest'oggi è importante perché segna la fine di 7 anni di mandato transitorio, macchiati da numerosi scandali anche abbastanza clamorosi di corruzione e di violenza, quindi c'è più speranza che chiarezza e luce in questo momento. Speriamo che le cose si aggiustino nelle prossime settimane. Nonostante tutto, rimane comunque una data importante. Ecco, e tra i problemi che inficiano questa roadmap c'è la presenza ancora corposa dei miliziani di Al-Shabaab, estremisti islamici legati ad Al-Qaeda che raggruppano parte dei clan somali. Ascoltiamo ancora Guglielmo su questo punto. Al-Shabaab controlla ancora abbondanti porzioni del centro-sud, anche se gli ultimi rapporti di intelligence dicono che che è in atto uno spostamento quantomeno di piccoli nuclei verso il nord, verso zone remote e centrali del Puntland. Ciò che impressiona in questo momento è che nonostante la presenza di numerosi contingenti internazionali, che vanno non solo dai 17.000 uomini dell'Unione Africana presenti sul territorio, quindi ugandesi per lo più, ma anche burundesi, gibutini, keniani e il contingente etiopico, i Shabaab comunque resistono. Certo, le forze, chiamiamole internazionali, hanno comunque fatto dei passi avanti, ma quello che sembra un po' emergere è l'alto grado di resistenza degli Shabaab in questo momento, che secondo me denota a questo punto un radicamento sul territorio abbastanza importante. E poi non dimentichiamocelo, perché c'è il fattore eritreo, perché il regime di Asmara arma pesantemente al-Shabaab e quindi insomma ha le spalle coperte da questo punto di vista, però c'è un altro aspetto che è interessante indagare e sarà in un prossimo futuro se e come potrà giocare un ruolo politico proprio al-Shabaab. Se queste sono le premesse, credo sia difficile poi invertire quel processo di disgregazione causato anche dai clan, ma non solo, in un processo di integrazione e maggior collaborazione politica tra clan. In molti hanno definito il ruolo dei clan come un ruolo di pura facciata, anche perché il clan negli anni è cambiato molto, negli anni di conflitto. Ricordiamo che la Somalia, dopo 22 anni di guerra civile, ha dovuto subire profonde trasformazioni anche nella sua stessa struttura sociale. Quindi il ruolo del clan in questo momento è certamente un ruolo più distruttivo che costruttivo. Per reinvertire questa tendenza c'è bisogno di un processo di riconciliazione che prenda, a mio avviso, in considerazione tutti o gran parte degli attori somali. In questo momento, ahimè, gli attori che hanno partecipato al processo transitorio e in particolare alla roadmap per la fine della transizione sono una piccola parte, diciamo così, degli attori in campo. Questo può essere un problema, soprattutto in futuro, e soprattutto di legittimità di quelle istituzioni che usciranno da questa fine di transizione. Questa è la situazione del paese, dell'ex colonia italiana, paese importante del Corno d'Africa, molto spesso ignorato dai media, se non appunto per eventi bellici. Fra l'altro, proprio mentre vi parliamo, rimane il porto di Chisimaio al sud del paese, una delle ultime grosse roccaforti di al-Shabaab, che viene attaccato dalle forze del Kenya e dai caschi verdi dell'Unione Africana. Questa era la nostra piccola parentesi sulla Somalia, ma adesso cambiamo pagina e andiamo nell'aula di tribunale di Hefei in Cina. A Chinese court has sentenced Gu Kalai, wife of disgraced Communist Party official Bo Xilai, to death with a 2-year reprieve after finding her guilty of murdering British businessman China Neil has Haywood. Handed down a suspended death sentence to the wife of disgraced politician Bo Xilai. E così sembra giungere a conclusione questa pagina giudiziaria che tanto sta appassionando cronisti e analisti che si occupano di Cina. Condanna per Gu Kailai, moglie dell'ex segretario del partito Bo Xilai, per l'uccisione di Neil Haywood, l'uomo d'affari britannico. La condanna è la pena capitale, che però è stata sospesa per 2 anni. Cerchiamo di capirne di più grazie a Antonio Talia di AgiChina24. Antonio, buongiorno. Buongiorno Giampaolo. Intanto spero di non aver sbagliato il cognome. No, non ho fatto una gaffa. No. Talia, giusto? Benissimo. Sì, corretto. Antonio, le valenze politiche di questo processo, un processo lampo, ne abbiamo già parlato nelle scorse settimane insieme, ma cerchiamo di ricapitolarlo brevemente. Sì, appunto, tu dicevi si è conclusa la pagina giudiziaria per ora, però le valenze politiche sono enormi e gli effetti politici ancora dobbiamo scoprirli, sicuramente è una vicenda che continuerà. Perché? Perché Gu Kailai è la moglie, come dicevi, di Bo Xilai, ex segretario di Chongqing, del partito di Chongqing. Chongqing è una megalopoli da 30 milioni di abitanti, è una città nella quale Bo Xilai aveva inaugurato un modello che lui aveva chiamato modello Chongqing, fatto di una campagna spietata anticrimine che aveva portato a arresti anche di alti ufficiali del partito e di molti businessmen, ed è anche il responsabile di una campagna di revival neomaoista, potremmo chiamarla. Lui ha intercettato un po' gli umori di una certa fazione del partito che viene chiamata la nuova sinistra, che sostiene che il Partito Comunista Cinese si sia distaccato dagli ideali degli inizi e che ci sia ormai in Cina una disparità eccessiva tra ricchi e poveri, e aveva appunto sosteneva che la ricetta per porre rimedio a questa situazione fosse un ritorno agli ideali del maoismo, compresi sì, anche tutti gli eccessi che ovviamente ben conosciamo. I suoi detrattori lo accusavano di essere una figura politica che di fatto avrebbe potuto riportare la Cina alla rivoluzione culturale, quindi al periodo più buio della Repubblica Popolare. Le valenze politiche sono enormi, perché ricordiamo che quest'anno in autunno ci sarà il congresso del Partito Comunista Cinese che esprimerà la nuova leadership che guiderà la Cina per i prossimi 10 anni. Bo Xilai è un politico spregiudicato, molto carismatico, molto telegenico, che prima che scoppiasse tutto lo scandalo relativo all'assassinio dell'uomo britannico Neil Haywood era fra i più probabili candidati per occupare un seggio al comitato permanente del Politburo, sì. Quindi il gota del potere cinese. Tutto lo scandalo è cominciato appunto con la fuga del suo braccio destro, un super poliziotto che si chiama Wang Lijun, che a febbraio si rifugia in un consolato americano, passa quasi un giorno dentro il consolato americano, poi viene preso in consegna dalle forze di polizia cinesi e si dice, pare, perché molti punti tutta la vicenda sono avvolti ancora nel mistero, si dice che Wang Lijun fosse scappato nel consolato americano per sfuggire allo stesso Bo Xilai, il quale stava tentando di coprire l'omicidio di Neil Haywood, di cui era appunto responsabile, sì, la moglie Gu Keilai, che è stata condannata oggi. Sì. Fra l'altro, Antonio, questa sentenza è stata usata la mano morbida, cioè questa sospensione di 2 anni della pena capitale e la commutazione in ergastolo in caso di buona condotta. Come dobbiamo leggerla? Sintetico, ti prego, su questo punto. Dunque, sì, è sicuramente una sentenza che è stata fatta da un lato per dimostrare che non si guarda in faccia a nessuno, anche a importanti membri del partito. Dall'altro lato però è una sentenza che è stata decisa anche per non scontentare i supporter di Bo Xilai e della sua famiglia, che comunque ancora hanno un certo peso in Cina. Sì. Ecco, ma scomparirà dalla scena questa figura, è stato detto, alla Lady Macbeth cinese? C'è la possibilità, no? Lo stiamo vedendo alle Pussy Riot in Russia, no? Già si dice dal carcere, comunque si faranno sentire. In Cina come funziona? Cioè l'apparato ti permetterà poi, una volta dietro le sbarre, di far sentire la tua voce o no? No, assolutamente. Questo ovviamente non, nessuno ha la sfera di cristallo, però i casi precedenti ci indicano che è quasi impossibile che la voce di Gu Keilai possa filtrare in qualche modo dal carcere. Sì. Ci dovrebbe essere qualche appoggio politico di qualche tipo. Allora, adesso c'è l'informazione finanziaria, poi restate con noi perché rimaniamo in Cina con un'altra vicenda tra il giudiziario, il diplomatico e il territoriale. Nessun luogo è lontano. First glance, this might look like an anti-police protest, but these Chinese demonstrators in Shenzhen aren't attacking the vehicle because it's a police car, but because it was made in Japan. It's the largest flare-up of Chinese public anger towards Japan in years. E quella che sentite è tutta la rabbia, le reazioni di c'è un po' il balletto delle cifre, si dice centinaia, migliaia di cinesi che sono scesi in piazza, nelle strade, in alcune città del paese asiatico per protestare contro cosa? Ebbene, siamo nel mar della Cina meridionale, sono delle piccole isole disabitate, le isole si chiamano Senkaku secondo Tokyo, sono invece le isole di Diaoyu, scusate la pronuncia. Secondo Pechino, ebbene, c'è una contesa riguardo a queste isole amministrate formalmente fino adesso dal Giappone, ma una settimana fa un gruppo di attivisti cinesi aveva aperto, per così dire, la contesa ed era sbarcato sulle isole. Ieri omologhi attivisti giapponesi sono sbarcati a nuoto, hanno piantato le bandiere e questa è stata una provocazione inaccettabile appunto per molti cinesi che in varie città hanno manifestato anche violentemente. Cerchiamo di capire di più, lo facciamo con un altro esperto di Cina che è Simone Pieranni, che scrive per China Files e Il Fatto Quotidiano. Simone, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, qual è il nocciolo della contesa, Simone? Si parla di gas e di pesce, quindi risorse oppure semplicemente una questione di principio? Ma quella, la vicenda delle isole di Diaoyu sembrerebbe più una vicenda diplomatica e legata ai nazionalismi tanto cinesi quanto giapponesi, perché stiamo parlando di un arcipelago di isolette che sono costituite da pietre, sono completamente disabitate e sebbene i giapponesi appunto rivendichino queste isole perché secondo loro avrebbero compiuto per prime tutta una serie di esplorazioni, sebbene appunto si dica ci siano risorse sotto, in realtà non è mai stato ufficializzato, quindi è una questione che viene fuori praticamente quasi ogni anno nella contesa tra Cina e Giappone, che è una contesa che sappiamo ha delle radici storiche ben chiare. Addirittura le isole di Diaoyu secondo i cinesi, Senkaku secondo i giapponesi, sono legate proprio a diatribe che affondano a origini della dinastia Ming per quanto riguarda la Cina, quindi stiamo parlando del 1300 e passa, e che poi sarebbero state secondo i cinesi restituite alla Cina dopo la fine del secondo conflitto mondiale, e che invece secondo i giapponesi sarebbero giapponesi perché non mai ridate sostanzialmente alla Cina. Ovviamente sulla contesa si giocano praticamente poi la faccia i due governi, e in questo caso diciamo che la miccia per tutto, ovvero lo sbarco dei cinesi la scorsa settimana, è stato dovuto al solito all'anniversario del 67esimo anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale, che ovviamente in Giappone viene celebrato con la visita ai cimiteri di quelli che vengono considerati i giapponesi eroi di guerra, che per i cinesi sono praticamente dei criminali invece di guerra. Sappiamo bene la vicenda di Nanchino, a cui sono legati anche colossal cinesi, tra i quali l'ultimo, Flowers of War di Zhang Yimou, è proprio su quell'episodio, quindi diciamo che è uno scheletro nell'armadio dei giapponesi che i cinesi tirano fuori appena possono, e da lì è partita questa diatriba che costituisce appunto la protesta più grossa negli ultimi periodi, perché l'ultima grande protesta anti-giapponese da parte dei cinesi fu nel 2010, quando venne arrestato un peschereccio di cinesi da parte delle autorità giapponesi. Ecco, fra l'altro adesso diciamo su a cosa serve e quanto serve il sentimento antinipponico, diciamo, internamente alla Cina, ci arriviamo, però questa rivalità, questo episodio ha portato in strada migliaia, centinaia, in realtà poi appunto le fonti discordano sul numero, però insomma le immagini sono abbastanza chiare, c'erano parecchi cinesi in strada che protestavano, anche hanno attaccato negozi giapponesi, hanno bruciato i negozi di sushi, auto della polizia, non in quanto auto della polizia ma in quanto di marca nipponica, ecco, quindi questo è strano, nel senso il governo cinese in questo caso permette di manifestare, addirittura dice alla polizia di non alzare un dito perché insomma sembra che non sia intervenuta. Quanto è bizzarra questa cosa, no? nella storia del regime cinese? Sì, su questo ci sono da fare due tipi di riflessioni. La prima è quella che solitamente quando si parla di proteste in Cina viene sempre tirato fuori, ad esempio, Weibo, che è il Twitter locale in cui si dice i cittadini cinesi protestano via Weibo. Sì. Ad esempio, la cosa interessante in questo caso è che ci sono state migliaia di persone in piazza, foto parlano abbastanza chiaro, quelle che sono girate su internet, poi sul numero esatto comunque ci sono state sicuramente le proteste forti, soprattutto in alcune città come Chengdu, Shenzhen e Canton. Però ad esempio su Weibo sono stati tantissimi i cinesi che hanno insomma criticato praticamente quelli che sono scesi in strada per protestare, sottolineando che si tratta di una questione nazionalistica che tutto sommato gioca a favore proprio del governo e distrae sostanzialmente da quelli che sono poi i veri problemi del paese, che sono l'inquinamento o nella fattispecie, visto che ne avete parlato poco fa, proprio il processo politico a Wukailai, di cui si sono cercati di nascondere in ogni modo le istanze più politiche legate al Partito Comunista. Dall'altro c'è appunto questo fenomeno delle proteste che comunque ci sono state e che ultimamente avvengono su alcuni temi, come in questo caso il confronto con il Giappone, in altri casi su temi come quelli dell'inquinamento, che in un certo senso fanno gioco al governo, lascia un po' diciamo di spazio affinché queste proteste possano avvenire, un po' per dare anche uno sfogo probabilmente in una società che è molto controllata e un po' perché comunque si tratta di temi che anche il governo in qualche modo sostiene, nel senso che il governo cinese è stato durissimo comunque nella sua risposta al governo giapponese. Ricordiamo che l'evento che ho ricordato poco fa, quello del peschereccio giapponese, diede via poi ad un embargo praticamente da parte della Cina nei confronti del Giappone delle esportazioni di terre rare. Ora vediamo se anche in questo caso ci saranno delle conseguenze economiche o meno. E su altri temi, come abbiamo detto prima, quelli dell'inquinamento, sono state chiuse alcune fabbriche proprio dopo delle proteste, è un altro dei temi che il governo in qualche modo supporta, proprio perché il nuovo piano quinquennale è stato definito il piano quinquennale verde, quindi in un certo senso il Partito Comunista è un animale molto più camaleontico di quello che ci aspettiamo e che è in grado insomma di cambiare forma a seconda anche degli eventi. Ha una grande lungimiranza dal loro punto di vista, ma sa anche adattarsi al day by day praticamente nella gestione soprattutto dell'opinione pubblica. Simone, purtroppo la linea non c'è molto amica, proviamo a ristabilirla meglio. Questa tesi qua, questa di un partito comunista, di un regime non monolitico ma che sa anche essere morbido, è al centro di un libro che ho qua fra le mani, ma che è in uscita il 31 di questo mese, si chiama Cina, la primavera mancata, e recuperiamo Antonio Taglia, che è rimasto all'ascolto con noi fino adesso, perché è uno degli autori, proprio insieme a Simone Pieranni, Sonia Montrella e Alessandra Spalletta. Cina, la primavera mancata, è fondamentalmente, si dice questo, al di là del fatto che mentre la primavera araba esplodeva succedeva qualcosa anche in Cina, però il regime cinese su alcune cose, come dire, lascia aperto un dibattito, no? Cioè si può parlare, si può alzare la testa, su altre cose no. Antonio, su questo punto sintetico. Sì, è un po' quello che raccontiamo nel libro, cioè ci sono appunto alcune questioni come quelle ecologiche che tutto sommato il partito cerca di sostenere laddove non contrastano con determinati interessi economici, ma come raccontiamo appunto nel libro, quando si cominciò a parlare nel febbraio del 2011 di manifestazioni di protesta per chiedere una riforma in senso democratico, allora lì, per quanto queste proteste ebbero un seguito molto scarso, in realtà poi il governo diede via un giro di vite soprattutto nei confronti degli elementi più scomodi, dei dissidenti. Da lì poi è partito un giro di vite che ha coinvolto personalità come Ai Weiwei, che è l'artista cinese più conosciuto nel mondo, che sembrava un intoccabile nonostante la sua posizione molto critica nel governo. Ecco, quindi sì, ci sono delle questioni che sulle quali il partito è disposto a dialogare, però nel momento in cui viene messa in discussione l'autorità del Partito Comunista Cinese, allora lì intervengono le forze di sicurezza con tutta la loro forza. Ecco, allora in questo libro, edito dall'Asino d'Oro, sono quattro cronisti che raccontano da dentro questo 2011, questa primavera mancata. Simone Pieranni, che intanto ci ha raggiunto, vediamo se la linea non ci tradisce nuovamente, è stata davvero un'occasione mancata questa del 2011, questa rivoluzione, questo tirar sulla testa da parte della società cinese che non è avvenuta? Beh, come spieghiamo nel libro, abbiamo raccontato proprio in presa diretta che definiamo una rivolta che non c'è stata di fatto, perché per strada sostanzialmente non c'è andato nessuno a testimoniare come nel momento in cui si va a intaccare, diciamo, la centralità del Partito Comunista non c'è possibilità praticamente di muoversi. Sostanzialmente quello che noi abbiamo scritto va un po' invece a leggere poi quello che non è avvenuto per strada, ma che è avvenuto poi magari su internet eccetera, è stato poi un evento che invece si è catapultato, che praticamente è diventato deleterio proprio per le eventuali voci di attiviste, perché da lì è partita un'onda lunga di repressione che ha praticamente portato all'arresto di centinaia e centinaia di attivisti. Quindi sicuramente è stata un'occasione mancata, ma nel senso proprio che sono mancate le forze, perché sì, comunque anche quando si parla di attivisti in Cina stiamo parlando di un numero molto limitato di persone, prima di tutto. In secondo luogo, anche all'interno dell'attivismo cinese comunque esistono diverse anime, e non tutte queste anime tra l'altro mettono in discussione a prescindere il Partito Comunista. Siamo ancora ad un livello in cui molte voci chiedono ad esempio magari delle riforme in senso democratico, ma che non prevedano comunque l'eliminazione del Partito Comunista o un sistema a più partiti. Tanto per dire, una delle persone che abbiamo intervistato nel corso di questo lavoro off the record ci ha detto: immaginati che andiamo in Cina, andiamo alle elezioni tra 6 mesi, rischiamo di eleggere un super populista, e qui ci possiamo riagganciare a quanto dicevamo prima a Bozilai, e entrare in guerra col Giappone tra 6 mesi, sì, e ci allacciamo al discorso delle isole. Quindi insomma, ovviamente la Cina è grande, come dicono sempre, sì, tutti i cinesi, e quindi insomma anche chi si muove all'interno di meccanismi che noi possiamo definire di artismo o di dissidenza comunque ha tutta una serie di vincoli che sono dettati anche dall'ambito culturale nel quale si muovono. Sì. Nel frattempo un ascoltatore o ascoltatrice lancia la provocazione chiedendo: quanti sono gli aborti di feti femminili fatti in Cina? Forse 140 milioni, alla faccia del comunismo non monolitico. Io parlavo di comunismo non monolitico in senso politico, nel senso che, come spiegano questi quattro autori, vi sono delle istanze che il regime accetta di discutere in qualche modo, altre evidentemente no. Non so se Antonio su questo punto volevi aggiungere qualcosa. Siamo quasi in chiusura perché il traffico incombe, Antonio. Ma sì, appunto, le istanze sono sicuramente quelle che dicevamo prima, cioè sono disposte a dialogare. Poi il problema degli aborti o la questione relativa, non lo so, a determinate questioni ambientali e la corruzione, per esempio, lì chiaramente il partito cerca di fare una pulizia interna, ma sempre pronto a usare il pugno di ferro. Questo allora la fotografia che emerge anche da questo testo. Lo ricordo: Cina, La Primavera Mancata, L'Asino d'Oro, Sonia Montrella, Alessandra Spalletta e Simone Pieranni, Antonio Taglia, che sono stati con me quest'oggi, che ringrazio, a cui auguro un buon lavoro, buona giornata. Allora c'è Il Traffico, poi Nessun Luogo Lontano cambierà pagina e tornerà in Europa. Nessun luogo è lontano. Come promesso, voltiamo pagina, torniamo in Europa, andiamo in Ungheria, non prima di ricordarvi che se seguite la nostra pagina Facebook postiamo i contributi, i link ai blog o ai media, ai siti dei media per cui lavorano gli ospiti che ogni giorno ci aiutano a costruire Nessun Luogo è Lontano, e la pagina Facebook è appunto Nessun Luogo è Lontano trattino Radio 24. Vi ricordo gli sms 349-238-6666 come quello utilizzato dall'ascoltatore pochi secondi fa. Perché andiamo in Ungheria? Perché pochi giorni fa Amnesty International ha rilasciato una durissima nota in cui chiede al governo magiaro di tutelare le minoranze rom. Gli ultimi episodi di attacco sono stati nel villaggio di Devecer, durante manifestazioni organizzate da Jobbik, che è un partito di estrema destra ungherese che ha un ottimo seguito e un ottimo supporto, ed è il terzo partito con più dell'11% che siede nel Parlamento di Budapest. In quell'occasione a Devecer alcune case, alcune abitazioni di cittadini ungheresi di origine rom sono state attaccate con lanci di pietre e bottiglie. E allora abbiamo cercato di capirne di più con Dori Atol, che è coordinatrice del progetto di Amnesty International in Ungheria. Sfortunatamente non è la prima volta che accade. L'anno scorso si sono verificati episodi simili, anche più violenti, sempre in occasione di manifestazioni del partito di estrema destra Jobbik, che è poi la terza forza politica dell'Ungheria. L'anno scorso, per esempio, hanno organizzato un corteo in un paese dell'Ungheria orientale, a cui si sono uniti alcuni membri dei gruppi extraparlamentari di estrema destra, che sono poi rimasti nel villaggio e hanno organizzato una sorta di caccia a rom. Durante la manifestazione di Jobbik del 5 agosto non sono stati raggiunti livelli simili, ma la polizia non è riuscita a contenere le violenze dei gruppi extraparlamentari. La maggior preoccupazione di Amnesty in questo momento riguarda proprio le forze dell'ordine, che non sono preparate ad affrontare violenze etniche. Come ho detto, Jobbik è il terzo partito in Parlamento, per cui ha un elettorato che lo appoggia. Ed è proprio per questo che le altre forze politiche dovrebbero condannare apertamente episodi di violenza razzista come questo, in modo che la popolazione possa sentire anche una voce diversa da quella di Jobbik, una voce politica che sia contro questo tipo di violenze. E questa era Dori Atol, coordinatrice di Amnesty International Ungheria, alla quale poi abbiamo chiesto un commento più in generale sulla situazione dei rom ungheresi, le cui stime parlano di un 6% della popolazione. In generale, in Ungheria, così come in altri paesi dell'Est Europa, i Rom costituiscono la minoranza più consistente e più svantaggiata del paese. Sono spesso discriminati in molti ambiti, come l'educazione e il lavoro. In realtà, le leggi ungheresi sono piuttosto severe per quanto riguarda la discriminazione, specialmente nel campo dell'educazione. Tuttavia, non sono applicate correttamente. La questione di cui si occupa principalmente Amnesty Ungheria è quella dei crimini d'odio, di cui i Rom sono spesso vittime. Purtroppo la giustizia e le forze dell'ordine ungheresi non sono preparati. Ecco perché vorremmo che la polizia introducesse delle linee guida speciali riguardo agli hate crimes e organizzasse corsi di preparazione per gli agenti su come riconoscere e come investigare su questo tipo di crimini. Generalmente la comunità Rom vive integrata nei contesti urbani, sia nella capitale che in tutto il paese. Esistono centri in cui i Rom sono maggiormente concentrati in alcuni quartieri e spesso subiscono episodi di discriminazione, ma per lo più, come dicevo, vivono abbastanza integrati nelle città e nei villaggi. È una situazione diversa rispetto a quella della Francia o dell'Italia, dove la comunità Rom vive in campi separati dal resto della cittadinanza. La nostra preoccupazione rimane comunque il forte pregiudizio della società ungherese verso i Rom, e purtroppo i partiti come Jobbik stanno cavalcando questo sentimento popolare per istigare la gente. Sarebbe perciò molto importante che il partito di maggioranza e il governo stesso prendessero posizione, condannassero questo e altri episodi simili. Questo lato di accusa di Amnesty International, sezione ungherese. Allora abbiamo cercato una replica, il contraltare, in Jobbik, e abbiamo raggiunto Marton Gyongyonshi, che è un deputato proprio di questo partito. Ascoltate il suo commento. Prima di tutto non ho mai letto il rapporto di Amnesty International per un buon motivo, perché questa organizzazione non è mai stata troppo oggettiva su queste questioni, per cui non mi sono mai disturbato a leggerne i rapporti. La popolazione ungherese è piuttosto frustrata per la questione dei Rom. Non stiamo facendo finta che il problema non esista, stiamo cercando di risolverlo dalla radice. I problemi della comunità Rom sono la mancanza di scolarizzazione e di occupazione, ma soprattutto il loro stile di vita del tutto inaccettabile per gli esseri umani normali. Per risolvere questa situazione bisogna puntare sulla scolarizzazione e sul lavoro, non sugli aiuti sociali da parte dello Stato. Bisognerebbe mettere a punto un programma che coinvolga non solo politici, ma anche economisti, sociologi e insegnanti per migliorare la vita dei Rom e degli ungheresi. Non ci sentiamo responsabili per le violenze accadute, non si possono controllare queste cose. In questo paese, ogni partito e ogni medium ha un ruolo in questi eventi. Jobbik sta semplicemente cercando di evidenziare un problema che da tempo affligge l'Ungheria. Ora tutta Europa sta puntando il dito contro l'Ungheria, così come il Partito Socialista e quello dei Verdi che cercano di trascinare Jobbik nel fango. Si tratta solo di provocazioni e di isteria collettiva, e ovviamente Amnesty International ha giocato un ruolo fondamentale nel montare il caso. Non si tratta di vaneggiamenti. Se si guarda indietro agli ultimi 20 anni, finché c'è stato un governo di sinistra, Amnesty non ha mai detto una parola. Non si tratta di teorie cospirazioniste. È la pratica di questa organizzazione. Non sto dicendo che Amnesty sia manovrata da forze politiche, ma si può dire che i risultati del lavoro di Amnesty siano estremamente di sinistra. Questo è il primo commento di Gyongyonshi, al quale abbiamo chiesto, insomma, qual è la soluzione, qual è il problema sostanziale che crea non solo questo dibattito, ma ripeto anche attacchi fisici ai Rom ripetuti, non è appunto la prima volta. Ascoltate che cosa ci ha detto. I veri problemi, e sono problemi molto seri in Ungheria, sono le violenze e i crimini commessi dai Rom. Omicidi, stupri, furti e rapine. Il nostro governo si sta comportando in modo altrettanto criminale perché si rifiuta di affrontare e risolvere la questione. Anche in Italia, così come in Francia e nel resto d'Europa, ci sono stati scandali riguardanti immigrati irregolari. E lo stesso governo italiano, quando si è occupato del problema di Rom, lo ha fatto sgomberando campi e rispedendo gli irregolari al mittente. Sono certo che abbiate avuto le vostre buone ragioni per farlo. Per noi è diverso. In Ungheria i Rom sono cittadini ungheresi e vivono qui, per cui non si possono estradare da nessuna parte. Non possiamo certo fare come il governo Berlusconi pochi anni fa, che espulse una gran quantità di immigrati. Dobbiamo risolvere il problema qui e dobbiamo farlo in fretta. Questo è quello che Jobbik sta cercando di fare. È un problema serio, basta aprire un giornale ungherese per capirlo. I media e tutto il mondo stanno cercando di far passare l'Ungheria per un paese in cui è impossibile vivere, popolato da fascisti e nazisti. Non è così. Abbiamo un problema e stiamo cercando di risolverlo, ma i media e le organizzazioni come Amnesty sembrano non occuparsene. Per esempio, Sky Italia ha mandato in onda un servizio in cui si parlava di ghetti e campi di lavoro per i Rom. Vengono usati due pesi e due misure. Quando i disordini con i Rom capitano in Francia o in Italia, la stampa internazionale non ne parla. Quando qui in Ungheria abbiamo una manifestazione con un'agenda politica, tutti si preoccupano che qualcuno abbia ricevuto una pietra in testa. Ma su quanto, come dire, la copertura mediatica internazionale sia carente sulla questione Rom si potrebbe sindacare, forse si può sindacare un po' meno sulla pietra in testa. Abbiamo raggiunto Un attivista che era presente quel 5 agosto a Devecer, ascoltate la sua testimonianza. C'è stata una manifestazione organizzata da Jobbik, a cui partecipavano anche alcune associazioni di estrema destra, che hanno cominciato a lanciare pietre e bottiglie d'acqua verso le abitazioni dei Rom. Anche io sono stata colpita da una di queste pietre. Sono stati principalmente membri di un'organizzazione chiamata Bakasharab, ovvero Esercito Fuori Legge. Sono molto violenti ed estremisti. Non ho dubbi sul fatto che Jobbik sostenga questa organizzazione. Hanno marciato insieme e hanno organizzato la manifestazione insieme. E allora abbiamo chiesto a Martin Gyongyongshi di Jobbik, il deputato la cui voce avete ascoltato anche prima, se fosse vero che vi fossero gruppi di cosiddetti vigilantes, comunque gruppi in uniforme, che appunto hanno dato inizio alle violenze. Non ho mai sentito parlare di gruppi di vigilantes, come li chiama Amnesty. Ma non mi stupirei se questa organizzazione trovasse i marziani in Ungheria. Alla manifestazione c'era un'associazione molto vicina a Jobbik, chiamata Guardia Ungherese. Hanno un uniforme rossa e spesso fanno delle marce, ma non si tratta assolutamente di un'organizzazione paramilitare, come si legge sulla stampa internazionale. È una pura menzogna. E non c'è stato un singolo episodio di violenza attribuito alla Guardia Ungherese. Si tratta solo di un'organizzazione nata per attirare l'attenzione sul problema dei Rom. Ma nessun incidente è stato provocato da questo gruppo. Non so di cosa stia parlando Amnesty, ma se riuscissi a scoprirlo ne sarei molto felice. E casomai ce ne fosse stato bisogno, ancora una volta stiamo capendo come la questione Rom sia una formidabile leva politica, almeno tanto quanto la questione immigrazione. Torneremo ancora su questo tema da qui a fine mese, ancora abbiamo 2 settimane insieme, gentili ascoltatori, ma adesso abbiamo il tempo, sì, di girare il mappamondo. WhatsApp. Notizie dall'altro lato del mondo. E vi porto in Africa perché oggi il Guardian in prima pagina rivela che la Shell, la grossa compagnia petrolifera, paga milioni e milioni di dollari l'anno le forze di sicurezza nigeriane per garantire la sicurezza nel delta del Niger, la ricchissima regione petrolifera dove appunto la Shell ha i suoi impianti, e fa un lungo elenco di cifre che appunto l'inviato del Guardian è riuscito ad avere questi documenti. Naturalmente questi documenti hanno, come dire, un contraltare, perché è vero che la situazione di sicurezza è estremamente compromessa, è altrettanto vero, come racconta il The Guardian, che c'è preoccupazione per il fatto che tutti questi soldi vadano a finire nelle mani di una polizia che, per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani, non è certamente esemplare. E sempre in Africa, dopo le preoccupazioni del Guardian nel caso Shell in Nigeria, andiamo a Marikana, in Sudafrica. Solo il 27% dei lavoratori della miniera, 100 km a sud-ovest di Johannesburg, vi ricorderete, teatro giovedì di quella strage incredibile di cui girava anche un video su internet, solo il 27% è tornato al lavoro dopo l'ultimatum della società. Vedremo come andrà a finire questo braccio di ferro, e adesso titoli di coda. Poi ci sono altri sms ancora sull'Ungheria, con paragoni con Lampedusa. Ci torniamo domani. Non mi resta che salutare Mira Lucchetti, Massimo Brugnone, Paolo Corleoni. Quest'oggi è la parte tecnica. Un saluto da Giampaolo Musumeci. Ricordate che nessun luogo è lontano.